Radio Popolare vi ha presentato La Caccia, caccia all'ideologico quotidiano, a cura di Felice Accame e Carlo Oliva. Se altre tornate elettorali non si impongono alla nostra attenzione, contiamo di rinnovare il nostro appuntamento di domenica in domenica. A domenica prossima, alla stessa ora. Grazie a tutti voi per la vostra attenzione e grazie a Luca Giulio per la regia. Buona giornata. Buona settimana a tutti.